Euroreportage. Aria di qualità cercasi. Una battaglia europea. Di Laura Bettini. La legge è uguale per tutti. Gli strumenti per raggiungere gli obiettivi possono essere diversi. In un certo senso è così che funziona l'Europa. Ogni paese membro, ad esempio, può decidere anche di delegare l'implementazione di una normativa ai livelli regionali o addirittura comunali, come accade in materia di qualità dell'aria. E se questo da un lato è comprensibile, tutto sommato pratico, dall'altro può generare problemi non trascurabili. I livelli amministrativi più bassi non sempre hanno strumenti legislativi o finanziari adeguati alla sfida. Possono avere difficoltà a valutare costi e benefici derivanti dall'introduzione di una o di un'altra misura e mancano comunque di una visione completa della questione. Anche di questo si è parlato durante la Green Week 2013, la settimana verde europea che il commissario all'ambiente Potocnik ha deciso quest'anno di dedicare all'aria. Questa discussione si è tenuta in particolare in una sessione specifica coordinata da Antonio Ballarin Denti, professore di fisica ambientale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. Quando si scende da Bruxelles, cioè dagli organi comunitari al territorio dell'Europa, abbiamo problemi molto diversi. E alla fine si ha l'impressione che nonostante il forte aiuto delle politiche comunitarie, il peso grosso del dover agire e dell'agire in modo efficace sta sulle spalle degli amministratori locali, i quali devono, a mio giudizio, essere dotati e anche essi dotarsi, diciamo, di maggiori capacità, per esempio, di interagire tra di loro, di comunicare, di raccogliere e scambiare buone pratiche, di discutere situazioni analoghe in modo che l'esperienza di uno aiuti l'altro, e poi dovrebbero avere degli strumenti anche per essere connessi meglio a livello nazionale, che spesso trascura le specificità locali, parlo a livello degli Stati membri e con l'Unione Europea stessa. Cioè, io credo che sarebbe auspicabile la creazione in questo campo dell'inquinamento e dell'ambiente di una sorta di Europa delle regioni. L'esperienza lo suggerisce anche a Maurizio Conte, assessore all'ambiente della Regione Veneto, tra i relatori dell'incontro. È far forza insieme, appunto, aggregare quelle che sono le esigenze territoriali dei singoli con quelle che sono invece realtà più ampie. La macro regione del Padana è sicuramente un elemento unificante sotto l'aspetto della criticità meteorologica, della criticità del vento, di quella situazione appunto morfologica che mette in difficoltà tutte queste regioni. Quindi si guarda soprattutto poi al rapporto con i governi nazionali e con l'Europa per chiedere quei giusti incentivi che possono essere fondamentali in questo momento, partendo dalla pianificazione, e dall'altra parte le risorse che molto spesso noi vediamo, ad esempio, legate al patto di stabilità, e quindi una difficoltà anche nell'ambito degli obiettivi di poterli appunto raggiungere. Il tuo è un rosso relativo. In questi mesi in cui si discute la revisione della direttiva sulla qualità dell'aria in Europa, che risale al 2008, il commissario all'ambiente Potocnik raccoglie volentieri le osservazioni, ma sulla questione delle macro regioni ha qualche riserva. Macro regional approach, actually. Un approccio per macro regioni. Sapete che abbiamo una direttiva che indica un tetto nazionale per le emissioni. Questa direttiva ha fondamentalmente questa logica. Non guarda a una città, a una regione, ma riconosce che bisogna guardare a un territorio nel complesso, che un paese può avere influenza su un altro. È una direttiva politicamente sensibile e per questo subì dei rinvii, ma siamo intenzionati a fare sul serio. Molto comunque è stato fatto con il protocollo di Göteborg per l'inquinamento atmosferico transfrontaliero, che ha allargato la platea delle nazioni coinvolte e che ci ha condotto a guardare oltre il 2020. Detto questo, so benissimo che in alcune regioni la questione è più difficile che in altre. Io stesso vivo a Lubiana, che si trova in una valle chiusa in cui è difficile avere l'alta qualità dell'aria che vorremmo. Però questo significa solo che dovremmo sforzarci di più, perché tutti abbiamo diritto a un'aria di qualità. Intanto l'aria è quella che è, anzi, un po' meglio in alcuni centri urbani, visto che per la crisi si è ridotto il numero di auto in circolazione e molti hanno cercato durante l'inverno di ridurre i costi per il riscaldamento. Ma sono miglioramenti di cui certamente non ci si può rallegrare, viste le cause. Anche perché la stessa crisi ha provocato altrove un peggioramento della qualità dell'aria. E lo scopriamo con l'assessore Conte. Pare infatti che molti autotrasportatori stranieri, per evitare i costi autostradali, prediligano le strade provinciali e statali. Questo ci preoccupa anche perché appunto l'inquinamento soprattutto dell'aria viene da mezzi che molto spesso non sono controllati, perché è anche questa la sleale concorrenza che sta avvenendo soprattutto con i nostri trasportatori, che devono sottostare a controlli anche dei mezzi, delle emissioni, rispetto a quello che vediamo che arriva soprattutto dall'est. Su questo le regioni stanno ragionando a livello nazionale con il governo per quanto riguarda appunto la possibilità della famosa vignette, ma questo sicuramente metterebbe forse ancora più in difficoltà la congestione territoriale. Forse se noi legassimo alla vignette anche magari quello che è appunto la tassazione del pedaggio autostradale, vuol dire noi tu devi pagare la vignetta appena passi il confine e però magari vieni agevolato sul pedaggio. Per fortuna una certa compensazione c'è nella macro regione Italia. Dalla prima settimana di luglio, infatti, i gelati Algida viaggiano su rotaia dallo stabilimento produttivo di Caivano, provincia di Napoli, fino al centro intermodale di Parma, grazie alle forze congiunte di Unilever, Trenitalia, Catone Logistica, riunite sotto l'egida del Ministero dell'Ambiente. Giuseppe Infantino, Vice President Supply Chain Unilever Italia. Se consideriamo che ogni treno circa da 24 a 30 casse mobili, ogni cassa mobile è fatta alle dimensioni di un camion, a conti fatti poi, vista la quantità di gelati che vendiamo, togliamo dalla strada circa 3.500 camion all'anno. Da un vostro punto di vista economico, diciamo, è sostenibile questo passaggio? Infatti il progetto è stato complicato anche perché, essendo la produzione italiana situata soprattutto al nord e quindi i flussi andare da nord a sud, ovviamente per noi che andiamo da sud a nord il tratto su gomma costa molto poco. Quindi arrivare adesso a sviluppare un progetto che oltre ad essere sostenibile fosse conveniente da un punto di vista economico ha richiesto parecchi sforzi da parte nostra e arriviamo a risparmiare un 6%. E nel frattempo, devo dire, i progressi che ha fatto la tecnologia per il controllo delle temperature da una parte, per seguire i treni dall'altra, e per i containers di ultima generazione, questo ci rende più tranquilli da un punto di vista di qualità. Ecco, devo dire, questa è la quadratura di un cerchio di un progetto che mi rende molto, molto soddisfatto. Che la spinta degli amministratori sia fondamentale è evidente anche nella storia che ci ha raccontato, sempre alla Green Week, Maria Rosa Baroni, presidente e amministratore delegato di NGV Italia, l'associazione che raggruppa tutti gli attori dell'industria del metano in Italia. Io come testimonianza porto la mia esperienza in India, dove a Delhi ho aiutato il governo in una politica veloce e precisa di migliorare l'aria. Tutti i mezzi pubblici dovevano dal 98 dovevano essere a energia pulita, sia GPL che metano. Io sono stata parte di quel programma. Oggi a Delhi ci sono più di 35.000 autobus e bus a metano, tutti i taxi più di 150.000 sono a metano e le tre ruote, che erano quelle più inquinanti per la miscela che usavano, sono tutte o a metano o a GPL. Ma in Italia il metano sta diffondendosi con una certa velocità negli ultimi anni. Quali ostacoli incontra nel suo percorso per incrementare? Devo dire che sembra incredibile, ma proprio in Italia, dove abbiamo quasi 1 milione di auto a metano, abbiamo un'infrastruttura che lascia molto a desiderare. Abbiamo soltanto 1.000 stazioni di rifornimento contro 1.000 stazioni di rifornimento in Germania, dove hanno solo 80.000 vetture a metano. Io ho un'auto a metano, però, quindi conosco il problema. Mi è capitato qualche gestore di dire: ho aspettato autorizzazioni per mesi prima di riuscire a fare. Anche qui colpisce la burocrazia italiana, quindi. Molto. È molto difficile aprire una stazione di rifornimento, specialmente per aprire stazioni di rifornimento in autostrada e per aprirle entro determinate distanze che adesso sono molto rigide. E Insomma, macro o micro regioni che siano, per avere successo si deve avere visione, strategia, ma soprattutto volontà. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.